ければ。 Se una radio è libera, ma libera veramente. Ascolta la radio. Radio e sessioni contagiano e con libere informazioni. Anni suonati, storia semiseria delle radio libere. Benvenuti a 40 anni suonati, storia semiseria delle radio libere. Nel 40° anno di vita di Radio Città Fujiko e delle altre radio libere abbiamo pensato di essere sufficientemente maturi per iniziare a raccontarci e a raccontare, senza pretesa di completezza, quella che è una storia intensa e affascinante, vissuta davanti e dietro al microfono. Questo format dunque ci accompagnerà tutte le settimane, proponendoci testimonianze, aneddoti e curiosità, vecchi documenti audio e riflessioni sulla radiofonia libera in Italia, partendo da noi e allargandoci alle altre emittenti, fino a comporre un ideale puzzle di quello che è stato, è e resta lo strumento di comunicazione più evocativo e collettivo mai inventato. Veniamo però al menù di questa puntata che, come le successive, conterrà diverse rubriche. Oggi ci affideremo alle parole dello storico DJ Andrea Gozza per capire il contesto, i bisogni e l'atmosfera che hanno accompagnato i primi passi delle radio libere in Italia nella seconda metà degli anni 70. Ascolteremo poi un reperto sonoro che promuoveva una campagna di sottoscrizione dell'allora Radio Città 103. Francesca Clementoni, giornalista di lungo corso, ci racconterà un aneddoto che riguarda l'inventiva per superare alcuni limiti tecnologici che si presentavano in una piccola emittente indipendente e, in ogni puntata, racconteremo la storia di una delle tante radio libere nate e poi scomparse. Buon ascolto! Ricordo, anche perché io ero, avevo questa grande passione per la radio ed ero sempre lì all'ascolto alla ricerca di nuove stazioni radio, anche perché c'era il sogno, l'ipotesi di mettere su una radio libera, così si chiamavano, e mi piace ancora chiamarle così. E quindi si scandagliava sempre l'etere per sentire se c'era una frequenza libera, dove casomai ci si poteva collocare per un'eventuale nuova radio. E mi ricordo che una mattina, girando con la manopola, ho sentito un fischio sui 103, era più o meno, stiamo parlando di vecchie radioline con la lancetta, e quello era il primo segnale, l'occupazione di frequenza di quella che poi sarebbe diventata Radio Città, Radio Città 103, Radio Città Fujiko oggi. Ed era un metodo quello, siccome diciamo le radio nascevano praticamente tutti i giorni, ce ne nasceva una, casomai ne moriva un'altra, perché erano tutte esperienze di quel tipo lì, però la prima cosa era l'occupazione della frequenza, e la si faceva con un fischio, cioè un segnale preciso lì continuo, e lì prima o poi sarebbe cominciata una diciamo nuova avventura radiofonica. Radio Città ha cominciato in questa maniera qua, come hanno cominciato tante altre in quegli anni. In quegli anni la radio intesa come la conosciamo oggi, vabbè, oggi siamo andati oltre, no, a quelli che erano la radiofonia libera, ma c'era solo la radio nazionale. Se uno voleva ascoltare della musica diversa, se uno voleva ascoltare la musica che gli piaceva, perché era un po' questo il problema, no, nel senso che noi c'era il rock, stiamo parlando dei primi anni 70, no, tutta una serie di formazioni che nascevano, di tendenze musicali che si accavallavano, tu avevi la Rai che stava bene o male sul commerciale, no, quelle canzoni, anche Lucio Battisti diventava una cosa non tanto piacevole da un lato, perché tu comunque avevi bisogno, io ascoltavo le Zeppelin, di Purple, gli Emerson, Lake & Palmer, King Crimson, no, per dire alcuni, gli Who, Beatles, Rolling Stones, no, citiamo tutti questi. La Rai dal punto di vista della sua programmazione su questo diciamo generi musicali non aveva pochissimi spazi. Io, uno se voleva ascoltare la radio per ascoltare qualcosa della tendenza del momento, di quello che arrivava dall'Inghilterra, da oltreoceano, era l'unica, era andare di notte ad ascoltare le radio che arrivavano dall'Inghilterra, anche quelle pirata, per dire. Poi di giorno, se volevi rifugiarti in una radio che avesse diciamo l'apparenza di essere una radio un po' diversa, c'era o Radio Capodistria, che era una radio che qua si riceveva in onde medie, oppure la famosa Radio Monte Carlo, che era un'altra delle emittenti che si ascoltavano molto in Italia, in alternativa alla Rai, tutte trasmissioni in onde medie, sto parlando, quindi in un'altra tipologia di frequenza, oltretutto anche una qualità inferiore dal punto di vista del suono, però al potere di arrivare molto lontano, di notte, con una propagazione perché maggiore, di notte, esatto. Perché di notte c'è questo fenomeno della ionosfera, per cui l'atmosfera diventa più rigida, per cui le onde rimbalzano, e quindi un segnale che arriva, come il caso di Radio Lussemburgo, arrivava bene in Italia di notte, di giorno sulla stessa frequenza non sentivi se non dei disturbi, ecco. Dopodiché nel 75 cominciarono a nascere i primi tentativi di forzare il monopolio della Rai, quindi dal 75 ci sono stati diversi, no, ma parliamo diciamo di quelli anche qua in città. Anche qua ci fu una delle prime trasmissioni in FM di una certa Radio Bologna, che trasmise da una roulotte su per i Colli, quindi una posizione agevolata, una pirata dal punto di vista, e ancora si vagava nel buio dal punto di vista delle regole. E poi arrivarono quelle sentenze per cui ci fu una liberatoria, e quindi l'FM, la trasmissione radio in FM, diventava un po' oggi come può essere il fenomeno del social media, che adesso è dilagante dal punto di vista straripante, no? Però il fatto di poter entrare sui mezzi di ricezione delle comunicazioni, tipo la radio, dove prima ascoltavi solo il monopolio Rai, di poterci arrivare anche te, tu cittadino semplice, tu che vorresti ascoltare della musica diversa, tu che vorresti esprimere anche dei pensieri politici diversi, no? Perché la radio dava queste possibilità, e improvvisamente questo strumento è diventato uno strumento diffusissimo, quindi nascevano radio da tutte le parti. dall'archivio. Di una politica che mira a costruire il centro. Questo è il centro. Insomma, Franzo Spagna purché se magne. Perché allora lei mi costringe a scendere su un terreno sul quale io non vorrei scendere. Yuhu! È una cosa intollerabile, è un colpo di Stato. La verità non può essere negata, negata, negata, negata, negata, negata, negata, negata, negata. La loro verità serve gli interessi di pochi. La politica è criptata? Assicurati un decoder. Sottoscrivi per Radio Città 103 sul conto corrente postale 188-93404 o passa nei nostri studi in Via Masi 2 a Bologna. Non perdere il contatto con la realtà. Assicurati un decoder con Radio Città 103. L'aneddoto. Quando io entrai in radio, insomma ero entrata da poco in radio, non esisteva la rete, lo streaming, la condivisione di file, diciamo, da una parte all'altra, e già collaboravamo con le altre radio italiane per la costituzione del circuito di Radio Gap. Mi ricordo, insieme all'allora direttore Alfredo Pasquali, le furbizie tecniche che ci si poteva inventare per riuscire a trasferire file a una radio che stava a Roma, per esempio, o a Brescia o a Torino, e quindi si creavano in sede delle strutture di microfoni che prendevano l'audio da un registratore, e però il microfono poi lo infilava nel mixer, e poi attraverso il telefono si passava l'audio alla radio amica. Questo secondo me è uno degli aneddoti più buffi a pensare, cioè rispetto a oggi, quello che riusciamo a fare invece nello scambio di contenuti continuo che avviene tutti i giorni. Erano delle vere e proprie invenzioni all'Archimede, veramente. Archimede pitagorico de Noartri, si potrebbe dire. Il concerto. Bubu Vibration, 30 agosto 2006. Allora ragazzi, questa è 2006 reggae in Italia, piede che invade. C'era una volta. Radio Delta 1. Radio Delta 1 nacque dall'impresa che alcuni amici misero in piedi nel garage di uno di loro a Castel San Pietro. Il babbo, proprietario del garage, faceva il muratore e realizzò gli studi costruendo un muretto e un pannello di vetro. Il figlio del carrozzaio si improvvisò tecnico del suono. Un altro ragazzo studiò da DJ, ascoltando le altre radio e inventando escamotage per fare gli stacchetti con le cassette. Un altro ancora portò la pila di dischi di Neil Young, Boston, Led Zeppelin e altri. Poi, tutti insieme, raccattarono i 45 giri di parenti e amici dimenticati nei solai e cominciarono le trasmissioni installando un palo con l'antenna e costruendo un trasmettitore artigianale, opera del figlio del carrozziere. Successivamente si aggiunse un redattore più benestante, un mobiliere che, a patto di fare un'ora al giorno di liscio, contribuì a comprare il materiale tecnico necessario a fare della radio una cosa seria, almeno nelle intenzioni. I ragazzi accettarono, anche perché non avevano una lira. Il nuovo arrivato portò anche DJ e personaggi, a sentire lui, comprovata esperienza, un sacco di dischi assurdi, ultime novità del mercato e cambiò il nome della radio in Canale F. Quasi senza essersene accorti, l'esperienza dei fondatori di Radio Delta 1 finì perché furono estromessi con la scusa che chi porta soldi ha bisogno di riguadagnarli. In un primo momento del nucleo originale rimase solamente il proprietario del garage, ma solo il tempo di completare il trasloco dei mixer nella nuova sede nel mobilificio. Quarant'anni suonati, storia semiseria delle Radio Libere, torna la settimana prossima. Per riascoltare questa puntata in podcast andate sul sito www.radiocittafugico.it. Beating my brains with liquor and drugs, with liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course, I had it in the ear before. Could I've lost for life? Could I've lost for life? I know he's gonna do another. jeans. Hey man, where'd you get that lotion? Your skin starts itching once you buy the game. With the box on the go, oh, low, low, low. Well, that's like hypnotized.